l'altra Europa. Buon sabato e buon 2013 da Federico Taddia. Eccoci qua di nuovo con l'altra Europa, prima puntata dell'anno. Continua il nostro viaggio per raccontare questa Europa, cosa che Radio 24 fa quotidianamente: l'attualità, la politica, l'economia. Noi cerchiamo anche altri punti di vista, altre storie per respirare un po' questa cultura europea. E non solo, come sempre potete seguirci anche sui nostri social network, le pagine ufficiali in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, l'account, il mio personale, @ Federico Taddia, tutti i link minuto per minuto relativi agli argomenti che andiamo a toccare. 2013 sarà un anno pieno di sfide per l'Europa, sarà un anno interamente dedicato alla cittadinanza attiva, quindi i cittadini che potranno farsi sentire. Sarà un anno in cui ci sarà anche un nuovo ingresso all'interno dell'Unione. Insomma, tante sfide, tante visioni, tanti problemi anche, ma tante opportunità e tante possibilità. Oggi faremo un viaggio nel tempo, cercheremo di raccontare l'anno che ci aspetta. Apriamo con un coro di bambini, così in segno di buon augurio per questo 2013, e andiamo subito a Bruxelles, punto di osservazione, osservatorio privilegiato per appunto conoscere l'Europa dal cuore, dall'interno, e lo facciamo con il corrispondente da Bruxelles della Stampa, Marco Zatterin. Ciao Marco, buon anno, ben ritrovato. Ciao e buon anno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo, credo, per capire quale sarà per l'Europa il 2013, quali saranno le sfide, anche se forse su questo qualche direzione c'è già. La domanda è questa: sarà un 2013 migliore? È possibile dare una risposta a questa domanda, Marco? La speranza è senza dubbio di sì, e ci sono anche le possibilità perché l'anno sia migliore. L'anno si apre come lo scorso anno: c'è bisogno di posti di lavoro, c'è bisogno di crescita e c'è bisogno di stabilità. Nel 2012 si è fatto molto per cercare di rispettare questi tre imperativi, e nel 2013 qualcosa potrebbe essere raccolto e la situazione potrebbe migliorare. Mm-hmm. La parola sfida, le sfide dell'Europa, ormai è una sfida quotidiana, quindi è difficile, credo, riassumere o identificare le macro sfide. Però secondo te quali sono veramente gli obiettivi principali? Ok, il lavoro, ok, l'economia, però ci sono delle strade, ci sono delle direzioni che si possono individuare? Ci vuole la stabilità prima di tutto, mm-hmm. che è l'unica cosa che l'Unione Europea può dare, perché ricordiamolo che nei trattati non ci sono la politica del lavoro, non c'è l'istruzione, non ci sono le politiche macroeconomiche, quindi tutte quelle cose che possono avere un'influenza diretta sull'andamento dell'economia e quindi sul benessere dei cittadini sono rimasti nell'emisfero delle possibilità dei singoli governi. Quello che può fare l'Europa è cercare di dare credibilità al suo progetto, dare credibilità alla sua moneta e sulla base di questo creare stabilità. Una volta che tutti fossero convinti che l'euro è qui per restare e che l'Europa è qui per restare, tutti gli altri obiettivi sarebbero senza dubbio più facili. Il 2012 è stato l'anno di Alba Dorata, è stato l'anno dell'Europa di Serie A e l'Europa di Serie B, è stato l'anno in cui si è messo in dubbio fortemente il futuro dell'euro, è stato l'anno in cui hai scritto pochi giorni fa di un muro che è nato all'interno proprio dell'Europa. E sono state delle fiammate, ci abbiamo toccato secondo te l'apice di questa titubanza, di questa diffidenza nei confronti dell'Unione? stagione o è una tendenza ancora in crescita? Temo di no, perché tutte le previsioni per il 2013 danno comunque un anno senza ripresa, forse si avrà qualche cosa alla fine dell'anno, nel secondo semestre, quindi è molto probabile che per i cittadini a basso reddito e quelli che hanno una vita più difficile, la vita non diventerà più facile. E quando le cose diventano complesse e quando la gente sta male, è molto facile seminare i populismi, seminare gli scetticismi e far credere che quello in cui si aveva fiducia un tempo non funziona. L'Europa ha mancato fino a un certo punto nel rispondere alla domanda dei suoi cittadini che chiedevano più benessere. Negli ultimi anni le cose sono andate maluccio. È vero che si è fatto parecchio dal punto di vista dell'architettura istituzionale, le riforme nei mercati finanziari e tutte queste cose qui, però il dividendo della crescita non è arrivato. Se non si avranno dei miglioramenti in tempi brevi, è facile che ulteriori populismi scoppino in giro per l'Europa. Io temo anche qualche tensione sociale, è per questo che serve la stabilità, serve la credibilità, ma soprattutto serve che i governi, quelli un po' più illuminati, quelli un po' più europei, spieghino che è soltanto tutti insieme che si possono risolvere i problemi. Sarà l'anno europeo dei cittadini, tu frequenti il palazzo e cerchi di tradurre per i cittadini quello che succede nel palazzo. Sono te i cittadini europei, questi 500 milioni di persone, hanno voglia di contatto con l'istituzione europea o è ancora una formalità, appunto, è il palazzo che cerca di aprirsi ma in verità non ce la fa? C'è chiaramente un problema di comunicazione in questa Europa in cui noi viviamo oggi. La mia esperienza diretta è che quando i cittadini vengono in Europa, i gruppi che vengono a Bruxelles, i giovani che visitano le istituzioni, nel momento in cui loro sono qui e capiscono come funziona la macchina, che non è soltanto la follia di qualche eurofunzionario, non è solo burocrazia, ma è un processo di integrazione che ha generato pace e ricchezza, allora questi cittadini cominciano ad amare l'Europa. Vista dai paesi membri, come del resto ha ammesso anche il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, nel suo discorso a Oslo quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace, vista dai cittadini l'Europa può sembrare un grande pasticcio perché emerge che si litiga sulle quantità di aringhe da pescare o sul che tipo di vestito mettere quando si va in moto. In realtà l'Europa è molto più che le piccole stupidaggini che magari fanno un buon titolo su un giornale che è tentato dal populismo. Se gli europei capiscono veramente che cos'è, ma soprattutto se i governi spiegano agli europei che cos'è l'Europa, smettendo di nazionalizzare i successi e comunitarizzare le sconfitte, tutto questo processo può diventare più facile e il suo dividendo può diventare più diffuso. Ti diverti ancora a raccontare l'Europa? Assolutamente sì, perché l'Europa cambia tutti i giorni, perché come giornalista è un'opportunità diversa tutte le volte di poter vedere i grandi protagonisti da vicini e vedere le espressioni di fastidio di Putin nei confronti dei leader europei e contemporaneamente spiegare che finalmente si possono fare i brevetti che costano meno o semplicemente raccontare come mai con un certo procedimento il vino può essere più buono e meno dannoso e provocare meno mal di testa. Da Putin al mal di testa forse sono due cose che vanno insieme, ma in mezzo ci sono centinaia di pezzi che sono ancora divertenti e molto belli da scrivere. Grazie davvero a Marco Zatin, corrispondente da Bruxelles per La Stampa. Ciao Marco, buon anno. A te, grazie. Europost-it. Crisi e occupazione. EU Skills Panorama vi chiarisce le idee. Attualmente, nonostante gli alti livelli di disoccupazione, in Europa si contano 2 milioni di posti di lavoro vacanti. La Commissione europea ha lanciato un sito web ad hoc. Si chiama EU Skills Panorama ed è un portale che, sfruttando dati e previsioni elaborati nazionalmente, metterà in evidenza le occupazioni in maggior crescita e quelle in cui ci sono maggiori opportunità. Curiosando nel sito, che offre informazioni divise per settore, professione e paese, si evince ad esempio che le occupazioni con le maggiori opportunità sono quelle legate alle vendite e alla finanza, ma anche alla biologia, alla medicina, all'infermieristica e all'ingegneria. Se siete curiosi sullo stato di salute del vostro settore lavorativo, visitate il sito euskillspanorama.ec.europa.eu. 2013 has been declared European Year of Citizens. The aim is to raise awareness of what being an EU citizen means, the rights it confers, including free movement and democratic engagement, and how to make use of those rights. Why? Quello che state ascoltando è l'audio di un video che serve per presentare il programma Europa per i cittadini 2007-2013, che ha come scopo primario la promozione della cittadinanza europea attiva, ovvero il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea. E il 2013 sarà proprio l'anno europeo dei cittadini. Per capire cosa vuol dire nel concreto e soprattutto quali possono essere delle attività, dei progetti che vedremo in atto nel prossimo anno, abbiamo invitato nuovamente Leila Nista, che è Project Manager del punto di contatto per il programma Europa per i cittadini del MIBAC e del Ministero per i beni e le attività culturali. Ben ritrovata Leila e buon anno. Buon anno anche a te. Un anno impegnativo, per fortuna, quello che vi aspetta, perché voi siete un po' il braccio esecutivo di questo anno europeo dei cittadini. Ci puoi spiegare quello che avete in programma e quello che ci aspetta, quelle che potranno essere le possibilità e le opportunità? Allora, quest'anno Europeo per il cittadino ovviamente sarà centrato tutto sul, come hai detto giustamente tu, sul concetto di partecipazione attiva. Cioè non è più come un tempo, il cittadino delle varie nazioni deve capire che ha dei diritti nell'ambito della comunità europea, che li può esercitare e che può anche informarsi in merito ad essi. Quindi il programma Europa per i cittadini l'anno prossimo sarà proprio uno degli strumenti fondamentali per poter partecipare alle celebrazioni di quest'anno da una parte, dall'altra parte anche per poter eventualmente inviare progetti che possono essere giudicati ammissibili e quindi finanziabili dalla comunità europea. Mm-hmm. Ecco, quali sono iniziative concrete, per avere un'idea pratica anche legate all'anno europeo dei cittadini? Per esempio, uno credo sia il gemellaggio. Allora, tu stai parlando di iniziative concrete riguardanti il programma Europa per il cittadino, forse, perché sì. L'anno europeo per il cittadino avrà una serie di iniziative specifiche a parte, indipendenti dal programma. Per esempio, il Ministero dei Beni Culturali organizzerà con il Dipartimento delle Politiche Comunitarie una grande mostra sul concetto della cittadinanza dall'antichità ai giorni nostri. Cioè la cittadinanza, in fondo il concetto di cittadinanza nasce con l'impero romano, il cittadino romano poteva usufruire determinati diritti che quando non si possedevano la cittadinanza romana non si potevano avere, e quindi ci è sembrato interessante poter creare una mostra migrante in cui si indichi un po' il progresso dell'evoluzione del concetto di cittadinanza. Come pure poi specificatamente noi ci occuperemo di diritti del cittadino nell'ambito dell'informazione culturale, essendo noi Ministero dei Beni Culturali. Certo. Invece le azioni legate al programma Europa per i cittadini, che sono azioni che valgono indipendentemente dall'anno europeo del cittadino, ma che insomma sono presenti anche quest'anno, per dire, sono tante e globalmente riguardano la possibilità che il cittadino possa essere coinvolto maggiormente nelle attività e nelle iniziative politiche europee. Quindi per esempio si promuovono gli incontri fra cittadini di varie nazioni che si riuniscono, interscambiano fra di loro, parlano di iniziative legislative europee ed eventualmente fanno anche proposte alla Commissione europea perché le attui delle leggi o attui dei regolamenti che possono essere più soddisfacenti o più idonei per il cittadino stesso. In questo senso proprio si parla di cittadinanza attiva, con la differenza che l'organizzazione di eventi di questo genere possono far parte di progetti che possono essere direttamente finanziati dalla comunità europea, che ha come fine quello di sviluppare una coscienza comunitaria attiva. Certo, le parole chiave, mi sembra, dell'anno europeo dei cittadini sono comunque conoscenza e consapevolezza, che sono due cose che camminano insieme. Perché quindi molti cittadini non hanno conoscenza dei loro diritti in quanto cittadini europei e non hanno neanche conoscenza delle possibilità di libera circolazione che c'è per quanto riguarda i capitali, le merci, le idee, anche nell'ambito per esempio degli artisti. E quest'anno sarà, questo 2013, sarà proprio un anno in cui anche noi batteremo molto perché si diffonda l'informazione, perché senza l'informazione il cittadino stesso non può sentirsi parte della comunità europea, logicamente. Europacittadini.it, questo è il sito ufficiale, sì. Sarà un po' il fulcro da cui diffonderete le tante iniziative. Esatto. Le nostre informazioni e fra queste, fra le attività, rientrano anche i gemellaggi, fra le attività del programma, appunto perché, come dicevi tu, il gemellaggio non è quella scampagnata che normalmente si pensa che sia, ma è proprio l'incontro fra città e quindi fra popolazioni di diverse città, di differenti nazioni, che si incontrano, parlano, attuano degli scambi e soprattutto possono proporre iniziative politiche, sociali comuni alla stessa comunità europea. Quindi il gemellaggio è uno strumento di cittadinanza attiva anch'esso. Certo, guarda, abbiamo raccontato diverse storie legate all'Emilia e al doposisma, proprio di paesi gemellati che hanno dato aiuti concreti, aiuti sia finanziari ma proprio anche sostegno in competenze, a volte anche solo per rialzare un po' l'umore, però il fatto che l'Europa, grazie ai gemellaggi, ti facesse sentire meno solo è stato un ottimo riscontro, quello che ci hanno raccontato. In effetti il concetto che l'Europa è costituita da tante nazioni con storie diverse è vero, però è anche vero che c'è un'unione nella diversità e che i gemellaggi permettono di scoprirla. Per esempio ci si gemella fra città perché hanno lo stesso culto di un santo specifico, quindi si parte da una cosa piccola e poi tramite il gemellaggio si scoprono delle affinità storiche e sociali di cui il culto comune del santo era soltanto una spia superficiale. Certo. Quindi è uno strumento di mescolanza delle popolazioni, di circolazione delle stesse, di sviluppo di un patrimonio intellettuale comune del mondo europeo. Un grazie davvero a lei, Lanista, per averci introdotto in questo anno europeo dei cittadini. Ricordiamo ancora europacittadini.it è il sito. Leila, ci ritroveremo sicuramente per parlare e sottolineare alcune iniziative. Ci saremo. Grazie. Ciao e buon anno ancora. Ciao, ciao. Arrivederci. Europostit. Tirocinio in hotel. Progetto Leonardo ti manda in Europa. The New Hotel, a European Work Experience in the Field of the Hotel Management, è il progetto Leonardo che mette a disposizione 100 borse di studio per stage finalizzati alla formazione di manager alberghieri. Il programma, organizzato dal Polo Informatico di Vasto, Svizzera, in collaborazione con Youth Europe Service di Potenza, è rivolto a 100 giovani neolaureati a cui permette di partecipare a stage di 3 mesi in Inghilterra, Malta, Spagna, Cipro o Turchia. I partecipanti devono avere una laurea in scienze economiche o in economia del turismo oppure un diploma di scuola superiore, corredato però da un'importante esperienza professionale nel settore. C'è tempo fino al 31 dicembre 2012. Per maggiori informazioni visitate il sito poloinformatico.net/newhotel.html. Chinese gender 2, Roberto Berlini c'è mai con le Love is our friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I, the easier is us. Don't need three words, just one could sum us up. E questo è l'audio di presentazione invece di un bellissimo progetto intitolato Racconta l'Europa all'Europa. Questo audio si trova sul canale YouTube dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, perché sono loro i promotori insieme ad altri partner europei di questo progetto che ha un importante contributo dell'Unione Europea in questo anno dedicato all'Europa allargata, all'Europa dei cittadini, all'Europa che risponde alla crisi, un progetto appunto per raccontare l'Europa all'altra Europa e agli europei. Per capire il cuore, la missione di tutto ciò, abbiamo con noi il direttore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, Luca Zanoni. Ciao Luca, ben ritrovato e buon anno. Ciao a voi, altrettanto. Raccontare l'Europa all'Europa, noi cerchiamo di farlo, voi cercate di farlo con il vostro importante lavoro, ma qual è il cuore di questo progetto, di questa iniziativa? Ecco, cerchiamo di farlo un po' tutti, insomma. Nel senso, racconta l'Europa all'Europa è quel, vogliamo parlare di quell'altra Europa che si conosce un po' di meno e che non va assolutamente temuta. Quindi è un'Europa di diciamo geograficamente, culturalmente appartenente appunto all'Europa, però che non fa parte ancora dell'Unione Europea, quindi sono quei paesi che sono vicini all'ingresso all'Unione Europea, come la Croazia, oppure che sono sulla strada dell'adesione o insomma nel giro dell'allargamento. Ecco, quindi sono i Balcani occidentali cosiddetti, che sono i paesi della ex Jugoslavia, meno la Slovenia, più l'Albania e la Turchia. Ecco, è significativo che proprio l'Unione Europea comunque appoggi un progetto del genere, cioè è l'Unione Europea per prima ad essere interessata a raccontare, a guardare, a osservare quello che succede lì nei pressi dei suoi confini. Sì, certo. Beh, sai, un po' è il, come dire, forse anche un po' un deficit dell'Unione Europea al cercare di comunicare che cosa fa effettivamente e quali sono le prospettive, quando generalmente si parla di allargamento, di fatica d'allargamento, sono parole che ai più restano un po' sconosciute, oltretutto sono nostri vicini e ancora adesso, nonostante i tragici anni 90, li conosciamo ancora poco. Ecco. Luca, come si può partecipare? Diciamo che il progetto è molto ampio, vuol parlare di questa Europa all'Europa, cioè dei Balcani occidentali, della Turchia, ai cittadini dell'Unione Europea, in particolare al pubblico italiano, ma non solo, perché avremo parecchio materiale anche in inglese, e è fatto con moltissime attività, diciamo a 360 gradi, vogliamo non solo quello che facciamo di solito, cioè fare informazione su questi paesi, ma avvicinarci anche a tutti gli aspetti che riguardano, che ne so, la cinematografia, l'enogastronomia. Quindi abbiamo 11 partner, tra questi appunto Radio Catalunya, quindi saremo anche in Spagna, Radio Capodistria, quindi Slovenia, Radio Radicale, Slow Food e Bulgaria. E ci sarà per esempio in Bulgaria un happening di Madreterra in Bulgaria, dove si presenteranno i prodotti tipici dei Balcani, per esempio. Oppure ci sarà la possibilità di partecipare attivamente a dei dibattiti online. Il primo sarà a febbraio, dove affronteremo un nodo tematico e ci saranno due esperti, due analisti che affronteranno una questione e il pubblico potrà partecipare ovviamente in mille altri modi, cioè inviando anche dei propri materiali, delle foto, quant'altro, insomma, racconti, per partecipare attivamente, insomma, a parlare ulteriormente di questi paesi, perché l'innamoramento soprattutto dei Balcani, il mal di Balcani sta diventando sempre un po' più diffuso, ecco. E nel 2013, insomma, i Balcani, grandi protagonisti dell'Europa grazie all'ingresso della Croazia, si sta aspettando con trepidazione questo momento? Sì e no, nel senso, la Croazia vive dei momenti molto difficili dal punto di vista economico e quindi c'è una grande apprensione per quel che riguarda appunto la situazione economica e finanziaria della Croazia. Soprattutto i lavoratori, ci sono stati dei forti tagli nel settore pubblico, anche e soprattutto sugli insegnanti, quindi la Croazia sta facendo il possibile, ma le manca un po' quella che è la parte economica, e in questa situazione qui di crisi estrema, diciamo che non se la vive particolarmente bene. Ha ricevuto nel 2012 l'ultima tranche di finanziamenti preadesione e poi adesso andrà in dritta verso l'ingresso del primo luglio. Luca, come sempre, grazie davvero per la tua analisi. Balcanicaucaso.org è il portale dove appunto conoscere meglio il progetto, racconta l'Europa all'Europa, ma non solo, perché lì c'è veramente un racconto quotidiano dell'altra Europa. Ciao Luca, un grazie a te, un grazie ciao a tutti a i tuoi voi. Collaboratori. Ciao ciao. Quando vas bambino londo mucho distante, almost quanto der luna, Parisa in Morgana, van luminose tower, muchachas kissingantes amorosas, trenos impotentes, gute travel nada, prisoners van multiplas fronteras, moi siempre hay departure trimingantes, discover infinites continentes, ahora en Europa can. Muchas cosas, ma que spique tanta linguas. Go donde prefere, ahora crumble muros. Un surge nuovo. E Paolo Bergamaschi, quello che canta in Europanto, ed è stato lui che è un dirigente, un collaboratore appunto del Parlamento europeo, ad accogliere in quanto funzionario gli oltre 200 studenti delle scuole superiori che hanno partecipato a dicembre a un importante progetto a Bruxelles e dintorni. Oggi che parliamo di cittadinanza attiva, di conoscenza, ci piaceva avere la testimonianza di alcuni dei ragazzi che hanno vissuto questo bel momento. Diamo il benvenuto a Chiara Vitaglione. Ciao Chiara. Buongiorno. E ad Antonio Affidato. Ciao Antonio, buon sabato. Buongiorno. Allora Chiara, tu hai 17 anni, fai la quarta liceo e voi entrambi avete partecipato agli scambi proposti da Intercultura e avete avuto anche la fortuna di frequentare Bruxelles e dintorni. Cosa avete combinato, Chiara, in quei giorni? Allora, io sono arrivata direttamente dalla Turchia a Bruxelles. In Turchia dove hai fatto il tuo scambio? Ho fatto 3 mesi in Turchia. Uh-huh. E alla fine di questo programma c'è un altro programma dedicato appunto alla cittadinanza europea, in cui tutti i ragazzi lavorano sull'essere cittadino europeo. Sì. E nei primi giorni abbiamo fatto proprio dei lavori, ci dividevamo a gruppi, e invece il secondo giorno, per esempio, siamo andati proprio a girare il Parlamento europeo a Bruxelles. Ok, adesso entreremo, ci accompagnerete anche dentro al Parlamento europeo, ma alla domanda cosa significa essere cittadini europei, hai trovato una risposta tu, Chiara? Io sì, credo di averla trovata. Comunque essere cittadini europei vuol dire conoscere, secondo me, vuol dire conoscere, far parte. Quando ti allontani da, per esempio, io sono andata in Turchia, che non fa neanche parte dell'Unione Europea. Mm-hmm. Quando ti allontani da un posto capisci la sua importanza, capisci cosa c'è, che cos'è, mentre invece quando tu rimani in questo posto tu non riesci a capirlo. Però io mi sono allontanata perché ho capito che cos'è, e soprattutto anche perché poi ci ho ragionato sopra, e questo mi ha aiutato tantissimo. Antonio, tu invece sei di Crotone e hai fatto il tuo periodo in Serbia, giusto? Sì, esattamente, ho fatto 3 mesi come Chiara, io l'ho fatto in Serbia, poi ci siamo rincontrati a Bruxelles, dove appunto Intercultura ha puntato a farci conoscere questa cittadinanza europea. Dove abbiamo capito più a fondo cosa significa, cioè non solo geograficamente parlando, ma anche per le cose che ci accomunano di più, come magari delle tradizioni o cose simili, dove lì a Bruxelles ogni ragazzo di ogni nazione, come ad esempio Chiara, che ha fatto l'exchange in Turchia, sì, ho potuto capire tantissime cose su quella cultura, e grazie a lei, e come anche a tantissimi altri ragazzi, ho potuto conoscere altre culture. Secondo me significa questo essere cittadino europeo, cioè conoscere più a fondo quello che significa l'Europa. Tra l'altro è particolare perché voi siete italiani, quindi fate parte dell'Europa, però avete fatto questa esperienza in nazioni ai confini dell'Europa, perché sia la Turchia, che probabilmente un giorno entrerà, la Serbia, che ci auguriamo presto possa fare parte dell'Unione Europea, però sono all'esterno dell'Unione. Poi vi siete però ritrovati a Bruxelles per condividere questo viaggio. Antonio, ma questa esperienza in Serbia invece come è stata? Io mi sono trovato benissimo, fin dal primo giorno non ho avuto nemmeno nessun problema, ho imparato tantissimo, ho imparato un'altra cultura, un'altra lingua. È un'esperienza che consiglierei a tutti quanti, perché apre veramente la mente e ti fa capire tantissime altre cose. Immagino. Stare a contatto con ragazzi di un'altra nazione ti fa capire tantissime cose, non solo sull'aspetto tradizionale, ma anche sulle piccole cose. Magari dove tu vedevi quelle piccole cose, magari non ci avessi caso, quando all'estero apri gli occhi su queste piccole cose che poi dopo ti accorgi che sono veramente importanti, come ad esempio il pranzo di famiglia, quando si va tutti insieme. Certo. E magari in un'altra nazione questo non succede. Chiara, oltre alla conoscenza, all'incontro con le persone, con gli altri ragazzi, oltre ai valori che sicuramente avete assaporato o che comunque avete trovato nelle riflessioni successive che avete fatto insieme o anche a livello personale, come ci hai detto tu prima, vi siete trovati però anche faccia a faccia con il palazzo, con l'istituzione, siete proprio entrati in quelle sale, in quei corridoi. Che emozione è stata e cosa hai raccolto? Allora, cosa ho raccolto? Io sinceramente, personalmente, ero molto giù, perché ero appena uscita dalla Turchia, ero appena arrivata, quindi ero molto ancora emozionatissima per l'esperienza in Turchia, quindi l'ho vissuta molto triste questa esperienza. Secondo me io non l'ho vissuta proprio a fondissimo. Eri distratta, diciamo. Sì, perché ero così presa che è stato così veloce, ma comunque anche lì comunque è stato emozionantissimo entrare al Parlamento Europeo, soprattutto sentire delle persone che facevano parte del Parlamento Europeo. So che avete visitato anche il Parlamentarium, di cui abbiamo parlato forse tempo fa anche qui all'Altra Europa. Com'è? È molto carino, è molto bello, perché comunque è interattivo. È una sorta di museo? Sì, è una sorta di museo, ma comunque molto interattivo. Non è il solito museo tra virgolette passivo, cioè, è proprio davvero interattivo, che tu hai un iPhone che ti parla personalmente, ti spiega le cose, dove sei interessato tu puoi andare, ma comunque è molto interessante. Io l'ho trovato davvero molto interessante, soprattutto mi ha fatto scoprire delle cose che io non sapevo. Certo. Su tutta l'Europa, sull'Unione Europea. Antonio, tu hai capito un po' il funzionamento della macchina europea? I vari organi, i vari Parlamento, la Commissione? Diciamo di sì. Concordo con Chiara, perché anch'io, come lei, ero un po', diciamo, ancora emozionato per l'exchange in Serbia. Però no, ho imparato tantissimo, perché siamo arrivati in questa specie di museo dove c'erano tantissime tecnologie, dove spiegava in modo dettagliato e preciso cos'era l'Europa e la spiegava in modo molto semplice. Cioè abbiamo capito tantissime cose. Mm-hmm. Questo è importante, perché comunque era una delle basi. Abbiamo detto che l'Europa la si fa anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza, quindi il capire passa proprio è la linea che passa tra questi due punti. E grazie davvero Chiara, grazie davvero Antonio per la vostra testimonianza. Intercultura.it è il sito internet per conoscere l'intero progetto. È una delle tante associazioni che propone la mobilità studentesca, gli scambi tra scuole. Noi le appoggiamo e l'appoggiamo in pieno. Ciao Antonio, ciao Chiara, buon 2013. Grazie per essere state con noi. Ciao. Giovani scienziati, l'Europa vi premia. La Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo, in collaborazione con FAST, la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico, hanno lanciato la 25esima edizione del concorso I Giovani e le Scienze. Il concorso, che mira a promuovere la cooperazione tra studenti appassionati di scienza, si svolgerà dal 13 al 15 aprile 2013 a Milano e sarà aperto a studenti singoli o a gruppi di tre, tra i 14 e i 21 anni di età, che frequentino le superiori o al massimo il primo anno di università. I partecipanti dovranno realizzare studi o progetti originali accompagnati da un testo scritto e sintetizzato in inglese e corredato da eventuali grafici, foto e illustrazioni. Per scaricare tutte le informazioni per partecipare, visitate il sito fast.me.it. Fax for Peace, Fax for Tolerance. Pace in mostra a Spilimbergo. Il concorso internazionale Fax for Peace, nato nel 1996 per iniziativa dell'Istituto di Istruzione Superiore di Spilimbergo, chiama studenti e artisti di tutto il mondo ad inviare immagini, video o animazioni sui temi della pace, della tolleranza, dei diritti umani e dell'antirazzismo. I singoli lavori, man mano che giungeranno, saranno esposti al pubblico presso l'Istituto di Istruzione Superiore in una mostra in progress, che è stata inaugurata domenica 25 novembre 2012. Un'apposita giuria, composta da esperti della comunicazione, critici d'arte e testimonial del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, selezionerà 7 opere tra tutte quelle pervenute ed assegnerà ai vincitori premi in denaro. Per inviare gli elaborati c'è tempo fino al 28 febbraio. La mostra, invece, sarà visitabile fino al 30 marzo 2013. Per maggiori informazioni, visitate il sito faxforpeace.eu. Prendete questa musica e su questa musica provate a immaginare alcune foto d'epoca dell'Europa. Non alcune foto, tante foto, un milione di fotografie storiche, un secolo di storia europea raccontato attraverso le immagini delle agenzie di stampa. Un progetto faraonico per vedere l'Europa, per conoscere l'Europa, oggi che apriamo l'anno dell'altra Europa raccontando come i cittadini potrebbero diventare parte attiva. Il modo migliore per essere parte attiva del nostro continente è conoscerlo, e lo si può fare grazie anche a questa piattaforma online, si chiama Europeana, un portale europeo per conoscere il patrimonio culturale del continente. 9 agenzie di stampa europee che uniscono e hanno unito le loro forze per mettere i loro archivi storici online. Abbiamo con noi Maurizio Lunetta, coordinatore del progetto Eurofoto del Dipartimento di Marketing Internazionale dell'agenzia ANSA. Ciao Maurizio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Che cos'è quindi questo Europeana? Allora, il nostro progetto si chiama Eurofoto e confluisce in un mega progetto europeo che si chiama Europeana. Sì. Il nostro progetto, finanziato comunque dalla Commissione europea, coinvolge, come avete detto, 9 agenzie di stampa nazionali. L'ANSA è il coordinatore del progetto e poi ci sono quelle che potremmo considerare le cugine negli altri paesi. Pensiamo per esempio alla EFE in Spagna, alla DPA in Germania e poi altre agenzie in Polonia, in Ungheria, in Portogallo, in Belgio, nei paesi scandinavi. Il nostro obiettivo riguarda le immagini storiche, i nostri archivi storici. e ha tre obiettivi. Il primo è quello del recupero. Sì. Ecco, basti pensare che le nostre agenzie per mestiere hanno registrato nel passato, ma registrano anche oggi, giorno per giorno, la cronaca del momento. Questo lo fanno da decenni e possiamo dire che con il tempo questa cronaca è diventata storia. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo accumulato durante tutto il XX secolo un patrimonio di circa 70 milioni di immagini che sono state conservate nel vecchio supporto che si utilizzava al tempo, i primi anni del secolo addirittura le lastre di vetro, poi negativi di grande formato, poi il 135 mm, soprattutto bianco e nero, ma gli ultimi anni anche il colore, le diapositive. Ebbene, il primo obiettivo del progetto è proprio recuperare questi archivi, non disperdere e non gettare via la nostra memoria storica. Come? Attraverso una digitalizzazione di queste immagini. Purtroppo l'abbiamo potuta fare solo per una quota dell'1-2% di tutti questi archivi. Sì. E abbiamo oggi quel milione di immagini a cui facevi riferimento, che sono state digitalizzate dalle agenzie e naturalmente catalogate, perché poi l'immagine senza un testo che spieghi di che cosa si parla naturalmente vale molto meno. Certo, e i privati cittadini possono comunque guardare questo portale, farsi questo viaggio nella storia dell'Europa. Maurizio, c'è qualche scatto, c'è qualche fotografia che meglio di altre secondo te racconta quella che è l'identità, quello che è il cuore di questo progetto? Sì, guarda, ce ne sono molte. Da italiano mi ricordo per esempio alcune immagini dell'Italia del dopoguerra, forse un po' sfracciona, ma però che aveva voglia di crescere e di progredire. Mi ricordo gli artigiani, c'è una foto bellissima di un artigiano a Palermo che decora un vecchio carretto siciliano, ma anche di donne che partecipano alle processioni religiose, è una foto molto strana, anche un po' buffa se vogliamo, quella della processione delle zitelle che chiedevano la grazia di sposarsi, perché poi queste erano le credenze del momento. Oppure i ragazzi che giocano con poche cose, la motorizzazione di massa, la moda delle sorelle Fontana, eccetera. Uscendo dall'Italia mi ricordo il sopravvissuto alla tragedia di Marcinelle, un minatore che ha avuto la fortuna di salvare la pelle in una tragedia dove morirono tanti minatori italiani. Oppure delle foto tipiche di un periodo degli anni 60 di realismo socialista, c'è un'immagine bellissima di contadini ungheresi con tanto di trattore e faccia il martello sul trattore che fanno festa. E poi naturalmente il cinema, i deruggenti anni 50, le grandi star, ma anche la vita quotidiana, la vita delle persone. Una chicca di immagini è rappresentata dalle vecchie immagini delle agenzie di stampa europee che furono censurate, parliamo delle agenzie dell'est, attualmente dei paesi dell'est, furono censurate dai regimi e che adesso possono essere viste e conosciute. Maurizio, guarda, ci si emoziona solo ad ascoltarle queste fotografie raccontate, quindi figurati poterle guardare. Ricordiamo che europeana.eu è la piattaforma per lo scambio di conoscenze tra bibliotecari, archivisti, industrie creative e il pubblico che ospita questo milione di foto, oppure l'accesso diretto che è www.eurofoto.eu.com, giusto? Sono queste le coordinate, esatto. Corrette? Benissimo. Quest'ultimo portale è un portale più per i professionisti, quindi più legato al nostro business, che poi è quello di vendere foto ai media europei. Certo, grazie ancora, complimenti per questo lavoro, in bocca al lupo per questo 2013, che sia ricco di fotografie. Grazie anche a voi. Ciao, buon sabato. Europost-it. Eures Jobs iPhone, lavoro europeo a portata di smartphone. Eures, il portale europeo per la mobilità professionale, sbarca su smartphone e tablet con la sua app Eures Jobs iPhone, che consente di cercare offerte di lavoro in tutta la comunità europea e di localizzare il consulente Eures più vicino. L'applicazione totalmente gratuita è disponibile in 25 lingue e copre i 27 stati membri dell'Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Al momento è utilizzabile solo con dispositivi mobili Apple, ma a inizio 2013 sarà lanciata anche una versione Android. È sufficiente avviare l'applicazione per visualizzare le offerte segnalate dai servizi per l'impiego di tutta Europa, salvare gli annunci interessanti e condividerli con altri utenti. Iniziate subito a cercare il vostro prossimo impiego in Europa scaricando l'app Eures Jobs iPhone da Apple Store. E chiude qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Ina, Miriam Lucchetti che con me l'hanno scritta, Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica. Vi ricordo l'Altra Europa @radio24.it se volete scriverci, oppure ci trovate su facebook.com/l'altra Europa, su Twitter l'account è @FedericoTaddia. La puntata sarà scaricabile in podcast da lunedì dal nostro sito radio24.it. Ancora grazie, ancora buon 2013, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao.